È un gruppo di redattori e redattrici di Radio Onda Rossa che si trovano qui a Via del Policlinico, nei locali di Liberazione, il giornale di Rifondazione Comunista che attualmente è occupato da redattori e redattrici. Questa è l'occupazione avvenuta negli ultimi giorni del dicembre scorso, perché appunto la società che gestisce Liberazione per conto del partito di Rifondazione Comunista ha deciso di interrompere le pubblicazioni cartacee. Liberazione difatti esce soltanto su web, in digitale. E questa decisione è stata contestata dai lavoratori e lavoratrici della redazione di Liberazione e hanno occupato appunto i locali, e da allora stanno in occupazione permanente, perché contestano alcune decisioni appunto della società che gestisce il giornale per conto del partito. Questa attualmente, appunto, tra un minuto sentiremo questa discussione tra i compagni della redazione di Radio Onda Rossa, che appunto per sostenere la lotta che comunque questi lavoratori rischiano di perdere il posto, e anche per in omaggio al discorso della libertà di informazione, abbiamo deciso appunto di fare questo incontro con i redattori e le redattrici di Liberazione. Attualmente sentiamo tra un poco se il collegamento va in porto. Pronto, pronto, mi Pronto, noi vi sentite? sentiamo. Spero di sì. Sì, vi sentiamo Vediamo un po'. benissimo. Allora proviamo a partire con questa, insomma, trasmissione direttamente dalla redazione, dagli uffici in cui veniva prodotto in realtà il giornale Liberazione fino a un mesetto fa. Insomma, il compagno che ci ha presentato ha raccontato sommariamente, insomma, quanto sta avvenendo da circa un mese che le redattrici e i redattori di Liberazione sono in assemblea permanente, da 2 settimane, quindi dal 28 dicembre, che il giornale è occupato, non nel senso, cioè è occupato fisicamente, nel senso che comunque alcune persone, alcuni lavoratori e lavoratrici dormono qui e lavorano qui quotidianamente, ma il giornale è stato occupato, nel senso che continua ad uscire, esce soltanto in PDF perché comunque la direzione ha in qualche modo bloccato la pubblicazione dal punto di vista cartaceo, però appunto questa occupazione, ed è per certi versi un esperimento, un tentativo, anche probabilmente una prima esperienza sotto questo punto di vista, sta continuando a uscire in PDF, quindi è possibile, insomma, comunque leggerlo, scaricarlo dalla rete. Diciamo, è come se fosse effettivamente una pubblicazione cartacea, soltanto che avviene in formato elettronico anziché in formato cartaceo. Appunto, questa vertenza è in piedi, diciamo, in questo modo qui dal 28 dicembre del 2011, quindi circa 2 settimane che questa cosa va avanti. Insomma, noi abbiamo deciso in qualche modo di venire qua, di dare voce a questa esperienza, a questa occupazione. Infatti, insomma, siamo qui con i mezzi della radio, che sono un po' quelli che sono, però insomma pensiamo di riuscire a fare un minimo di lavoro, anche di informazione sotto questo punto di vista. Così io passerei anche a questo punto la parola direttamente, insomma, ai compagni che sono qui con noi e che magari ci raccontano un po' come sta andando questa esperienza e anche effettivamente quale sarà la molla, insomma, al di là, insomma, delle questioni che abbiamo raccontato, che vi ha spinto a prendere questa decisione in particolare, insomma, dell'occupazione e del continuare a far uscire il giornale. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa e grazie alla redazione di Radio Onda Rossa che ci dà oggi questo spazio, ci dà questa voce dopo averci dato comunque voce anche nel corso dei primi giorni di questa lotta e dopo che gli stessi compagni della redazione di Onda Rossa sono venuti qui a più riprese a portarci la loro solidarietà. Come raccontare questa vicenda? Questa vicenda inizia alla metà del mese di dicembre, in qualche modo con quella che è spesso la modalità che le aziende hanno nei confronti dei lavoratori quando vogliono andare un po' per le spicce, quella di mettere i lavoratori, le loro rappresentanze sindacali, di fronte a un fatto compiuto. A metà del mese di dicembre l'editore MRC, che pubblica per Rifondazione Comunista il quotidiano Liberazione, ci ha messo di fronte al fatto compiuto che dal 1 gennaio il giornale cartaceo Liberazione, che andava normalmente in edicola, non ci sarebbe più stato. e ha annunciato che avrebbe disdetto gli accordi sindacali che già regolavano in un regime di crisi, quindi con una forte riduzione dei costi, compreso il costo del lavoro, l'organizzazione interna del giornale, per chiedere la messa in cassa integrazione a zero ore di tutti i dipendenti. Di fronte a questo ovviamente c'è stata una mobilitazione sindacale, abbiamo ottenuto dei tavoli sindacali a livello nazionale per trattare questa vicenda, assistiti dai sindacati, dall'SLC-CGL per quanto riguarda i poligrafici e dagli altri sindacati di categoria dei poligrafici e dall'FNSI per quanto riguarda i giornalisti, e si è ottenuto dopo, diciamo, due tavoli sindacali lunghissimi, estenuanti e abbastanza conflittuali, l'impegno da parte dell'editore di tenere quella che loro hanno definito accesa una fiammella, vale a dire chiuso il cartaceo dal 1 gennaio, mantenere però aperto l'online, anche se con una formulazione che a noi è apparsa in qualche modo ridicola, vale a dire con due giornalisti e un poligrafico, veramente una fiammella, quasi un lumicino di quelli da Camposanto in qualche modo, no? E di fronte a questo noi abbiamo scelto che questa redazione, attraverso che dal 15-16 di dicembre si è riunita in assemblea permanente, in qualche modo prefigurando l'occupazione, vale a dire che eravamo sempre qui, soltanto non dormivamo, diciamo, tra i nostri computer, tra le nostre scrivanie. Sulla base appunto di questo atteggiamento dell'editore, noi abbiamo deciso di occupare il giornale alla fine di dicembre, il 28 di dicembre, per trasformare questa iniziativa di lotta nella nostra assemblea permanente, nel mantenimento della battaglia sindacale, della battaglia per i diritti dei lavoratori, ma anche in un'assunzione di responsabilità da parte degli stessi lavoratori, che a fronte di un editore che fuggiva dalle proprie responsabilità decidevano invece di occupare il giornale per continuare a fare il giornale, trasformando in qualche modo quella fiammella, quella che per l'editore doveva essere una sorta di testimonianza residuale di che cosa è stata Liberazione, nel mantenimento di quello che Liberazione è grazie a questa lotta ancora oggi, cioè un giornale, come ricordava prima il compagno della radio, un giornale ancora presente sul nostro sito www.liberazione.it, che però è anche un sito, quindi abbiamo, diciamo, la formulazione del sito online e quella dell'edizione in PDF del vecchio giornale cartaceo, che così continua a vivere e che può essere scaricabile. Questo, diciamo, il senso. Il senso è evidentemente quello di testimoniare con questa lotta che noi non solo teniamo i nostri posti di lavoro, e credo che questo sia per tutti sacrosanto, ma che noi teniamo anche a questo giornale, che riteniamo che questo giornale, che è ovviamente l'organo di Rifondazione Comunista, ma è stato nell'arco di questi 20 anni anche una voce della sinistra, abbiamo detto sociale, diffusa, è stato una voce di tutte le culture, dal femminismo al GLBTQ, dall'ambientalismo alle lotte territoriali, dalle lotte sociali ai movimenti studenteschi, tutto quello contro la guerra, e ovviamente dimentico tante cose, siamo stati in qualche modo la voce di una sinistra plurale che andava anche al di là diciamo dei muri delle sezioni di partito. E noi pensiamo che questo giornale sia in qualche modo un bene comune, sia un patrimonio collettivo, e pensiamo che nel difendere i nostri posti di lavoro, mantenendo aperto questo giornale, continuando a farlo vivere in rete attraverso il PDF, continuando a mantenere però l'impostazione del lavoro che accompagnava il giornale, oltre a continuare a fare un sito, noi non vogliamo tenere aperta una fiammella, vogliamo continuare a mantenere quel bene comune, a dire che quel giornale appartiene non soltanto a chi lo fa, ma a chi lo legge, che, diciamo, l'informazione, il pluralismo non riguarda soltanto, diciamo, i grandi temi, i diritti costituzionali, la democrazia in questo paese, ma poi riguarda anche come si fanno i prodotti, come si muovono le aziende, e pensiamo che in un'azienda come questa le parole che si dicono debbano avere un significato concreto. Questa lotta chiede che ragionare di un giornale di sinistra in Italia significhi farlo con i lavoratori, significhi farlo difendendo le condizioni occupazionali, significhi farlo non dicendo sulle pagine di un giornale che si lotta a difesa di qualcuno e poi ci si dimentica che chi lo sta facendo magari non ha diritti. E in questo ovviamente non dimentichiamo, per chi ci ascolta sia chiaro, per gli ascoltatori di Onda Rossa siamo una goccia in un oceano e ci sono lavoratori che fanno questo stesso lavoro in condizioni molto peggiori delle nostre. Quindi noi difendiamo in questo modo un ragionamento e conduciamo un ragionamento sul diritto di chi lavora in questo settore nell'informazione e nella comunicazione, a partire dal fatto che noi comunque avevamo e abbiamo ancora e ci battiamo perché continuino a essere vigenti degli accordi sindacali, dei contratti nazionali. Ci sono colleghi e colleghe che sono da anni precari, che sono tenuti ai margini delle redazioni. Sappiamo, come dire, che questa vicenda non è che un piccolo faro rispetto a una condizione generale di precarietà del mondo dell'informazione. E a questo io aggiungerei, magari poi passando il microfono, la voce, che questa battaglia credo ci stia insegnando anche molte cose, a noi che l'abbiamo iniziata con tutta la difficoltà di quando si comincia una lotta in una piccola realtà, no? In cui ci si conta, in cui ci si guarda in faccia, ci si chiede ce la faremo, come ce la faremo. Non stiamo soltanto raccogliendo un'ampia solidarietà, di cui anche ovviamente la trasmissione, vi ringraziamo ancora di Onda Rossa di questa mattina, è una testimonianza, ma questo luogo in qualche modo si sta anche trasformando, cioè sta diventando un luogo in cui le lotte che sono state per tanti anni raccontate, Liberazione a circa 20 anni di vita, stanno attraversando la nostra redazione, stanno diventando parte del nostro quotidiano, del nostro vissuto dentro Occupai Liberazione, dentro l'occupazione che fa il giornale. Soltanto ieri c'erano qui riunite compagni e compagni, colleghe e colleghi del coordinamento dei precari che in contatto con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana stanno conducendo una battaglia per i propri diritti. Nei primi giorni, la prima mattina, diciamo la prima notte fatta, a svegliarci è stato un compagno del coordinamento dei precari della scuola che è venuto qui alle 9 di mattina dopo che un altro ci aveva portato la colazione uscendo dal carcere, come fa tutte le mattine per venire in redazione, e ci ha detto vedo nei vostri sguardi gli stessi sguardi che abbiamo noi quando occupiamo le scuole, quando difendiamo i nostri posti di lavoro. È un piccolo segnale, ne potremo adesso raccontare molti altri, di quello che sta accadendo e che dice, ci fa dire che forse questa lotta non è solo la nostra lotta, forse non è un caso che Radio Onda Rossa oggi sia qui con noi, che forse questa cosa sta iniziando a dare un segnale che si potrà allargare e che possa in qualche modo testimoniare di come alcuni beni comuni, che sono materiali e immateriali, l'informazione e la comunicazione è uno di questi, appartengono davvero a tutti quanti. Allora, sono due le domande. Che la prima riguarda, diciamo così, io ho visto, insomma, noi abbiamo visto entrando materassi, insomma, si vede che è il posto che Liberazione è occupata. E che vuol dire occupare un giornale e continuare a farlo uscire occupando un giornale? Prima parlavamo appunto anche di che esperienze ci sono state nella storia dell'informazione, nell'occupazione di quotidiani, di giornali, penso anche, insomma, in altri mezzi di comunicazione, radio piuttosto che televisioni, e insomma che esperienza è questa? E poi parleremo un attimo che vuol dire la precarietà nel mondo dell'informazione, che insomma in questi ultimi tempi sta coinvolgendo tantissime persone. La domanda è interessante, che cosa vuol dire occupare, perché non lo sappiamo neanche noi e ci siamo detti fin dal primo giorno che dovevamo pensare facendo, perché non c'era tempo per elaborare prima. E, la domanda se siano esistite, se esistano altre esperienze simili, per il momento non ce ne sono state segnalate. Ce n'è stata segnalata una, il suggerimento veniva dalla Federazione Nazionale della Stampa, una occupazione in Sardegna negli anni 70. In realtà poi abbiamo chiesto a un collaboratore di fare una mini inchiesta e abbiamo scoperto, il caso è di Tutto Quotidiano, un giornale di destra che effettivamente ebbe una vicenda interessante, ma abbiamo scoperto che non si trattò di un'occupazione in senso stretto, cioè la gente non occupò i locali, non si fermò a dormire lì, ma fece una cosa molto interessante, cioè un anno di autogestione. Quindi così lanciamo pure un appello, nel senso che se qualcuno che ci sta ascoltando sa di qualche esperienza presente o passata, sarebbe divertente anche raccontarla e così confrontarsi. Per quello che riguarda noi, ma così rifletta alta voce. Secondo me, a me sembra che l'occupazione in sé, nella sua diciamo fisicità, diciamo, e come atto collettivo, in qualche modo sta un po' anche, potrebbe diventare il modello del giornale che facciamo, nel senso questa redazione, non è, il giornale non è, se guardiamo il complesso diciamo così dei suoi 20 anni, non è stato mai un giornale chiuso, completamente chiuso. Il suo statuto di giornale di partito se l'è giocato a seconda dei periodi e delle direzioni in modi diversi. Comunque diciamo che il tentativo è stato qua sempre o quasi sempre, insomma, quello di mantenere delle porte aperte, di allargare la discussione quantomeno a sinistra, eccetera. Però devo dire, io sto qui da 18 anni, il via vai di gente che vedo, che ho visto, non so Guido se è d'accordo, io non l'ho mai visto prima, nel senso che le porte sono aperte, noi ce lo siamo detto subito, questa è un'occupazione aperta, non è che stiamo chiusi qua dentro asserragliati nei locali aspettando che prima o poi in un modo o nell'altro ci caccino via. Intanto, appunto, come è stato detto, stiamo qui per fare il giornale, per far vivere il giornale, quindi diciamo non come un atto di volontariato, ma come proprio un gesto di lotta, no? E un gesto di lotta in un certo senso anche contro la volontà del nostro editore, e qua c'è tutta una polemica. Ovviamente noi non dimentichiamo mai che questa difficoltà economica dipende da Monti e dai tagli del governo Berlusconi, che Monti non ha rifinanziato, del finanziamento pubblico. Resta che il nostro editore, come dire, si è presentato a noi con un gesto che noi abbiamo definito come una sorta di suicidio preventivo, nel senso che c'è paura che ti ammazzino, allora per toglierti il pensiero ti ammazzi tu da solo un po' in anticipo. Loro replicano che non hanno altra scelta, che anche un solo giorno in edicola in più avrebbe portato al fallimento economico, eccetera. La cosa è aperta, per fortuna. Guido prima non l'ha detto, lo dico io perché è una cosa importante, martedì mattina c'è una nuova convocazione, quindi si spera che questa volta il dialogo sindacale ci sia un confronto vero. Chiudo questa lunga parentesi. Dicevo, la nostra occupazione è aperta e c'è un sacco di gente che viene, che passa, che porta delle cose. Il giorno di Santo Stefano, che non eravamo ancora in occupazione ma comunque siamo stati qua, giornata di festa per in assemblea permanente, sono venuti lavoratori di varie aziende in crisi qui di Roma e dintorni, e in particolare ci ha molto colpito la visita di due giovani ferrovieri dei vagoni. Tra l'altro avevamo appuntamento oggi per mangiare con loro, l'idea era quella di restituire la visita, diciamo, di portare pane, mortadella e vino rosso. Ci hanno telefonato ieri sera se potevamo spostare, e l'abbiamo spostata a lunedì, quindi per dire, no? L'idea è quella di scambiarsi solidarietà con le situazioni sia del mondo editoriale, ma anche no, tutte quelle situazioni in cui c'è gente che dice noi non paghiamo una crisi che non abbiamo fatto noi. Ecco, noi ci ritroviamo perfettamente in questa situazione, ci abbiamo molta voglia di scambiare. Faccio 2 o 3 esempi, appunto, questo ci ha particolarmente commosso, questo giovane lavoratore che ha detto cose del genere non devono succedere né a voi né a noi, no? Una cosa, un messaggio molto forte proprio all'inizio della nostra lotta. E un'altra cosa che mi piace ricordare, perché è stata veramente interessante, è stata una riunione che abbiamo fatto assolutamente improvvisata, nel senso che, appunto, come dicevo, fare le cose sistematiche e ben organizzate non è possibile, siamo troppo pochi, quindi quello che riusciamo a fare facciamo, non siamo perfezionisti, cioè, pensiamo che conviene buttare là una cosa che poi magari si sviluppa. E così, facendo 4 telefonate, perché abbiamo fatto varie iniziative esterne e abbiamo pensato che bisognasse farne altre, abbiamo improvvisato una riunione qua di CDR e RSU, quindi giornalisti e poligrafici. Anche questo non è per niente una cosa usuale, ci possiamo tornare dopo perché è un punto che mi sta particolarmente a cuore. E è venuta una bella realtà, non eravamo 150, eravamo un gruppetto, però è stato interessante, si sono intrecciate delle riflessioni che appunto poi il segretario nazionale della SLC-CGL, per dire, ci ha detto che insomma ritiene così, insomma, una riflessione abbastanza di punta, ecco, tra le due categorie. E ieri poi, lo accennava Guido, sono venute alcune compagne e compagni di questo coordinamento dei precari e hanno fatto un intervento nella nostra assemblea, hanno posto anche in maniera, come è giusto, in maniera assolutamente netta e diretta la domanda anche a questo giornale e il dito è sulla piaga perché il rapporto di questo giornale con i suoi collaboratori esterni è tutto da, come dire, da... Esatto, da colmare. E poi hanno, ed è stato interessante perché quella lì è stata la prima volta che un gruppo esterno, diciamo, ha chiesto di poter fare la sua riunione qua perché riteneva significativo questo rapporto con l'occupazione. E loro hanno lanciato una iniziativa che ci hanno in programma per il 25. Stanno ancora mettendola in sesto, ma insomma è un'iniziativa di testimonianza, di solidarietà con questo giornalista milanese che mi sentite? Scorta, no? Pronto? E quello ci raccontavano, la persona che parlava era Valentino, una bravissima, combattivissima sulla battaglia dei precari, no. E ci raccontava che quello viene pagato 4 euro a pezzo. Pronto? 4 euro a pezzo. Poi noi abbiamo risposto con un'altra idea che abbiamo sul tema del precariato, quindi insomma volendo potremmo parlare per ore. No, diciamo che su questa questione invece io un'altra domanda ve la farei, nel senso che negli ultimi anni tutto il mondo dell'informazione e diciamo così principalmente, scusate, comunichiamo con la radio, e sempre di più si stanno smantellando, diciamo così, a sinistra tantissimi giornali, immagino insomma tutta la vertenza che è in corso tuttora per quanto riguarda Terra, poi tocca a voi, si parla del manifesto e via dicendo. E sicuramente questi giornali, anche se a sinistra, come accennavi tu prima, non è che hanno avuto nei confronti diciamo così dei propri giornalisti piuttosto che dei collaboratori, non sempre hanno avuto un rapporto lavorativo insomma ottimale, no? Perché sempre di più si sta andando nei confronti del mondo dei giornali, maggiore anche alle grandi testate eccetera, a usare tutti i precari piuttosto che tutti quelli appena usciti molto giovani, piuttosto che avere dei contratti giornalistici, cioè o comunque piuttosto che mantenere in piedi anche un po' ovunque, smantellarli e avere, tanto ci stanno i ragazzi giovani che appunto lavorano per 3-4 euro. 87.9, sempre Radio Onda Rossa, piano piano abbassiamo la musica della radio, direttamente dalla radio, stiamo aspettando appunto questo intervento direttamente dagli studi di Radio Onda Rossa, mentre noi ci troviamo ancora qui a Via del Policlinico, nella sede di Occupa Liberazione. Stavamo parlando appunto del mondo dei precari nel giornalismo e nell'informazione, e che ovviamente è un argomento che riguarda tantissimi e che sempre di più si sta diffondendo, perché appunto tantissime testate cominciano a superare cercano di superare la crisi abbassando insomma i diritti dei lavoratori e assumendo in modo del tutto precario e con una paga totalmente allucinante, e tantissime anche persone più che altro giovani, per non parlare degli stage che migliaia e migliaia di scuole di giornalismo producono giovani ragazzi che poi passano dai 3 ai 6 mesi nelle testate giornalistiche, e da lì da 6 mesi in 6 mesi veramente ci stanno testate che vivono esclusivamente di stage. Su questo si sta ovviamente si sta lavorando, immagino che Liberazione, come tu hai già accennato, possa diventare in questo momento un punto di riferimento su un tema che è quello della precarietà nella comunicazione, nell'informazione, che se ne parla oggettivamente molto poco perché è molto frammentaria, ognuno ha tipologie di contratto diverso, ognuno si contratta personalmente, come ormai le nuove categorie lavorative, purtroppo la contrattazione è quasi ad personam col datore di lavoro, per cui invece mi sembra importante questo, mi hai detto che già c'è stato appunto l'intervento dei precari, ma ci sono anche delle altre iniziative in corso. Guarda, prima di raccontare questa idea, che ancora è in fieri ma insomma la lanciamo in anteprima, mi interessava dire questo, che frequentando appunto in questi ultimi tempi in particolare le riunioni dei giornalisti precari, trovo molto interessanti, una delle cose che diciamo mi colpiscono è questa, che loro giustamente denunciano che nelle redazioni c'è anche questo problema drammatico per cui i giornalisti contrattualizzati, come io sono, come noi siamo, in qualche modo c'è una contrapposizione di interessi, perché la logica è che è meglio che difendiamo i nostri, ci arrocchiamo sul nostro contratto, no? E sui nostri diritti, piuttosto che porci il problema. Effettivamente è una cosa di una miopia assurda, una miopia assurda. Non è che bisogna stare dalla parte dei precari, anche chi ha il punto di forza del contratto, per essere buoni o per essere solidali. È per interesse che bisogna stare dalla parte dei precari, perché se io non difendo i precari e se il precario viene pagato 5 euro a un pezzo, non è il caso di questa redazione, va detto, il caso di questa redazione lo diciamo dopo, ovviamente come faccio a difendere il mio posto di lavoro fisso? È ovvio che alla prima occasione mi sbatteranno fuori, l'editore non avrà altro che convenienza a trovare 10 giovani precari che gli producono pezzi a quei prezzi, è la cosa più... Quindi difendere i precari, pretendere anche per loro dei diritti, pretendere dei pagamenti equi, adesso sta arrivando, sembra addirittura d'arrivo una legge ad hoc, pretendere che ci sia un rapporto pulito, diciamo così, perché tante volte siamo noi che stiamo dentro le redazioni, che ci facciamo tramite, no? Poi di rapporti che di fatto sono di sfruttamento, no? Questo è secondo me una grande scommessa in questo momento per il mondo del giornalismo, perché se non se ne esce, se i contrattualizzati si arroccano, si stanno veramente mettendo la corda al collo. Sarebbe un interesse reciproco, speriamo che in qualche modo il confronto lo faccia capire. E per quello che riguarda la Liberazione, laviamo i panni sporchi in pubblico, che è una cosa che è molto sana, fa bene a tutti. Allora, sul fronte lavoro nero, diciamo, e precario in senso stretto, direi che siamo in una situazione estremamente pulita. Siamo in una situazione estremamente pulita perché 13 anni fa abbiamo fatto una vertenza all'ultimo sangue, simile a quella che stiamo facendo adesso, perché c'era una redazione per metà precaria, la parola esatta è per metà in nero, in occasione di una crisi economica si pensò che la soluzione fosse sbattere fuori loro e tenere i contrattualizzati. Noi contrattualizzati, per uno di quegli strani momenti di intelligenza collettiva che ogni tanto succedono, quasi per miracolo, ci opponemmo duramente e alla fine, dopo un anno e mezzo di braccio di ferro con momenti veramente duri, tutti furono regolarizzati. Quindi adesso questa è una redazione che da questo punto di vista è pulita. Altro discorso è quello del rapporto con i cosiddetti collaboratori esterni. Si possono usare tante belle parole, si può dire freelance, si può dire quello che ci pare. Diciamo che forse, non so, su un milione di freelance ce ne sta uno che ha deciso di fare questa vita perché la preferisce e gli altri 999.999 lo fanno perché sono obbligati dai rapporti di forza. Quindi qua possiamo dire che noi non paghiamo 4 euro, Liberazione non paga 4 euro, anzi i compensi in genere sono stati abbastanza equi, non lo so, 50, 80, 100 euro a pezzo in questo ordine, quindi rispetto ai prezzi di mercato è una cosa dignitosa, ma il problema è che questi soldi non venivano erogati, mediamente un anno e mezzo di ritardo, il fatto che la persona che ti ha prodotto comunque qualcosa, quindi non è che tu glielo fai per beneficenza, è costretta a implorare all'amministrazione, a supplicare, a chiedere. Ora, naturalmente, la risposta delle amministrazioni, sia dei giornali poveri come il nostro e che veramente sono spesso senza liquidi come il nostro, ma anche dei grandi giornali che invece questo problema non ce l'hanno, è sempre che sì, appunto, non c'è liquidità, eccetera, però quando gli chiedi il pezzo vuoi che te lo diano puntualmente, no? Perché deve arrivare puntuale all'ora di chiusura, quindi questa è la situazione. Passiamo all'idea, che è una cosa più divertente. L'idea è questa, e vi ripeto, ve la diamo in anteprima prima ancora di averla messa a punto, però lanciamola, che così poi le idee viaggiano per conto proprio. È una cosa che dovrebbe succedere domenica prossima, il titolo è Altro che casta. Sono invitati a partecipare tutti, in primo luogo giornalisti, ma non solo, tutti quelli che ruotano intorno al mondo dell'informazione, quindi naturalmente, poligrafici, fotografi, tecnici audio radio, visivi, insomma, radio e televisione, voglio dire. C'è un unico requisito, il requisito è questo. Quando senti dire i giornalisti sono una casta, come ha detto anche di recente la ministra Fornero, pensando alla tua vita, ti viene da bestemmiare e da dire casta a me, che mi sono alzato stamattina alle 8, sto andando a fare un pezzo, me lo pagano non so quando, devo correre. Ecco, se la tua reazione è questa, allora l'idea è vieni qui, partecipa alla redazione a Liberazione, al Viale del Policlinico, e partecipi a questa che è semplicemente una, nella nostra idea, una maratona di testimonianze. Quindi la stiamo mettendo a punto, apriremo una mail ad hoc per chiedere a chi vuole partecipare di prenotarsi, e semplicemente diciamo ci sarà questo raccontarsi gli uni agli altri, cioè questa è la mia vita, questa è la mia realtà professionale. Si può dire che la mia vita è casta? Diciamo che in linea di massima ci rivolgiamo soprattutto ai colleghi precari o ai colleghi delle testate a rischio, che essendo giornali piccoli, indipendenti, tendenzialmente sono senza soldi. Non escluso nemmeno che venga qualche giornalista di qualche grossa testata, perché naturalmente non è tutt'oro quello che luccica, no? Nel senso che magari, che ne so, uno che adesso sta a Repubblica, ma prima che gli è successo, quanti anni di precariato ha fatto, in che condizioni lavora, quanto dura il suo contratto, eccetera. E stesso discorso appunto vale per i fotografi, per le figure che nominavo prima. Può essere una cosa interessante, poi questa è la griglia, poi naturalmente ci si possono inventare delle cose sopra, è tutto aperto, nel senso che ovviamente si può pensare che stiamo pensando di invitare che ne so, documentaristi che possano riprendere, possiamo fare delle forme di diretta magari con qualche radio, ecco, ve la buttiamo là, gente di teatro che può inserirsi in qualche modo, può essere così, un'idea che dobbiamo aprire una mail ad hoc per prenotarsi, anche per valutare se siamo in 10 o in 1000, e poi insomma può essere pure un'idea che cresce sulle sue gambe. Non so se ci avete domande così, altrimenti riprenderei sul fatto del giornali di, insomma, diciamo che sempre di più giornali di sinistra, insomma, stanno morendo. E quindi diciamo che un'informazione, e questo ovviamente quando si chiudono spazi di libertà, si chiudono spazi di libertà per tutti, da qui anche secondo me la necessità della radio di discutere anche di questo, voglio dire, quando si parla di sui diritti dei lavoratori piuttosto che di spazi di comunicazione, ovviamente anche noi ci troviamo coinvolti. E invece la cosa che ti volevo chiedere è cosa sta succedendo, cioè cosa è successo al PDF di Liberazione in questi giorni. Abbiamo letto insomma tutta una diatriba per quanto riguardava anche la pubblicazione del PDF sul Left, e se, io direi anche che insomma più o meno stiamo anche per concludere, poi se ci dite un po', Carla ci ha raccontato delle prossime iniziative, e poi vabbè, martedì c'è quest'altro incontro, quindi casomai poi dopo martedì continueremo a parlare proprio della vertenza. Sì, che cosa è accaduto? Ma diciamo che fin dall'inizio di questa vicenda, nel mentre qui si cercava di, mettendo i lavoratori di fronte al fatto compiuto, di definire un orizzonte fin dall'inizio, cioè quello della sospensione del giornale cartaceo, della riduzione del sito a una semplice testimonianza e quant'altro, i colleghi della rappresentanza sindacale, CDR, delle rappresentanze dei poligrafici, di Manifesto e Unità, ci hanno chiamato per annunciarci che gli erano arrivati da parte del nostro editore delle proposte perché delle pagine di Liberazione, la prima di Liberazione, a seconda dei casi, fossero ospitate su quei due quotidiani. E ovviamente nel mentre, questo era... diciamo che questa cosa a noi è stata comunicata in un secondo tempo. Nel frattempo ci arrivava questa notizia, quindi ci siamo trovati di fronte a una sorta di paradosso, cioè lo stesso editore che diceva che qui non c'era più alcuna chance e che annunciava tutti in cassa integrazione a zero ore, proponeva ad altri quotidiani per solidarietà rispetto all'uscita di scena, diciamo, dalle edicole per il momento di Liberazione, di ospitare delle pagine di Liberazione, fatte da chi, fatte da come, fatte come, passati per quali riunioni di redazioni. E ovviamente noi abbiamo risposto all'appello di questi compagni a un chiarimento, a capire che cosa stesse accadendo, con quello che è diciamo l'orizzonte, il ragionamento che ci accompagna. Noi riteniamo che questa testata, come qualunque altra testata, e qui il nesso tra la difesa della comunicazione e dell'informazione democratica e la difesa dei posti di lavoro e dei diritti dei lavoratori è, come dire, l'elemento centrale di questa battaglia, che non si possa immaginare di salvare le testate sulla pelle dei lavoratori, non si può immaginare che un giornale continui a vivere anche se licenzia tutti i propri lavoratori, tiene le redazioni piene di precari e attorno a collaborazioni al nero e via dicendo, cioè quanto si è detto fin qui. E quindi ovviamente siamo intervenuti su quei giornali per spiegare la nostra posizione. A questo punto i lavoratori e del Manifesto e dell'Unità, peraltro due realtà produttive, due redazioni già segnate dalla crisi, per cui si annunciano per le prossime settimane, hanno già una battaglia sindacale in corso, hanno già fatto una serie di richieste al governo, eccetera, si annunciano una serie di problemi e che sono parte della nostra battaglia, nel senso che più o meno quotidianamente non solo li incontriamo, ma partecipiamo a riunioni, assemblee, all'FNSI, a iniziative. La prossima settimana probabilmente ce ne sarà una nel confronti del governo Monti, perché la prossima settimana si voterà il decreto mille proroghe, ci sono una serie di elementi, diciamo, in cui il governo potrebbe manifestare o meno la propria volontà di intervenire a salvaguardia del pluralismo democratico, vale a dire sostenendo almeno in parte le spese di questi giornali. Questi colleghi ci hanno detto: beh, ovviamente siamo con voi, noi siamo a fianco della battaglia dei lavoratori di Liberazione perché il giornale Liberazione continui a vivere con tutti coloro che lo hanno fatto in questi anni e non in una forma, un succedaneo di qualche tipo che però negherebbe i diritti dei lavoratori e sarebbe espressione a questo punto non si sa bene di cosa. E che cosa è accaduto in questi ultimi giorni? Che questa vicenda si è ripetuta con Terra, con Left, sì. Lapsus freudiano, perché ovviamente con i colleghi di Terra tutti i giorni i colleghi di Terra sono stati qui e hanno una vicenda ancora più complessa della nostra e anzi noi abbiamo offerto ai colleghi di Terra di ospitare, visto loro ci avevano chiesto dello spazio, di ospitare sulla nostra edizione PDF una pagina fatta dai lavoratori di Terra, che è una pagina autogestita che continua a far vivere quel giornale che il loro editore invece ha deciso di bloccare e di sospendere. E è accaduta la stessa cosa con Left, è accaduto cioè che ci siamo trovati di fronte al fatto compiuto di aprire un numero del settimanale uscito ieri e trovare quattro pagine di cui non si aveva alcuna nozione. Tenete conto che non solo noi facciamo tutti i giorni la riunione di redazione, quella cioè in cui si costruisce tecnicamente il giornale, quali sono i temi del giorno, chi fa cosa, eccetera eccetera, ma essendo la redazione occupata qui c'è praticamente un'assemblea quasi continua, nel senso che le occasioni per parlarsi e mettersi d'accordo sono ovviamente molteplici. A questo punto noi abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo capito che i colleghi di Left, parlo della redazione, dei lavoratori, dei nostri colleghi, delle rappresentanze sindacali, non si erano accorti di che cosa stava accadendo a Liberazione e abbiamo scritto a questi colleghi per dire che cosa sta succedendo e perché secondo noi sia impensabile quanto è accaduto, ma sia impensabile che si possa pensare di salvare una testata o di mantenere in vita una testata o dare visibilità a una testata mentre si negano i diritti dei lavoratori e pensando in qualche modo che si possa tenere aperto un giornale senza i giornalisti e i poligrafici, no? Che sembra un ossimoro, ma evidentemente qualcuno lo pensa così e i colleghi di Left ci hanno risposto ieri pubblicando sul loro sito la nostra lettera e la loro risposta per dire: siamo con voi e d'ora in poi saremo al vostro fianco perché appunto si difenda la testata e si difendano i lavoratori. Questo però che cosa ha prodotto? Ha prodotto una grandissima discussione qui a Liberazione, due assemblee lunghissime, siccome l'occupazione e la costruzione del giornale è fatta dalle medesime persone, questo ha reso ovviamente impossibile la costruzione del giornale e di questo abbiamo informato i nostri lettori, i lettori di www.liberazione.it, da cui si, come dire, dove si trova sia il sito sia il giornale in formato PDF, che questo non ci sarebbe stato per due giorni e che saremmo però rapidamente tornati. Questo è un po' il quadro della situazione. No, aggiungo soltanto una cosa. Scusate, è pronto? Poi ci siamo un po' persi, no? Pronto, mi ascoltate? L'occupazione può essere un po' il modello del giornale che facciamo. Ecco, questa lunghissima assemblea che abbiamo fatto per siamo partiti dalla discussione di questo caso, però è stata anche un'occasione per pensare un po' al tipo giornale che stiamo facendo e l'idea, cioè, pronto? Abbiamo messo in campo una marea di energie sia all'interno ma anche tantissimo all'esterno, e quindi la nostra convinzione è che il giornale non potrà più essere come prima, nel senso che queste energie circolano pure dentro il giornale, ecco, e allora stiamo in un territorio, è molto interessante, secondo noi è un esperimento, il giornale aveva una organizzazione molto classica, diciamo così, e adesso siamo in un territorio intermedio, concludo, per cui diciamo l'organizzazione classica tradizionale del giornale retta dall'articolo 6 famoso del contratto dei giornalisti che dà tutti i poteri al direttore, diciamo tantissimi poteri al direttore, da una parte, dall'altra un'esperienza d'autogestione completa, noi non siamo né da una parte né dall'altra, siamo in un territorio intermedio in cui tutto è da inventare e tutto è da contrattare, e ci sembra che ecco sia un esperimento molto importante sia da questo punto di vista, cioè chi decide cosa, la partecipazione eccetera, e sia le cose che ci mettiamo dentro, che non possono, cioè questa esperienza di apertura totale, di sprigionamento di idee, di energie, non può non fare un salto in avanti al giornale, ecco, è questo. Pronto? E allora dovremmo avere a questo punto una corrispondenza, una telefonata, diciamo, dallo studio, noi l'ascoltiamo, insomma, c'è un pochino di ritardo fra noi e la radio, comunque cerchiamo di ascoltarla. Sì, mi scuso, prima avevo provato a chiamare, insomma, con qualche difficoltà di collegamento, perché avevo sentito che dalla redazione, insomma, questo discorso dell'occupazione era vissuto un po' anche come prima esperienza, insomma, anzi chiedevano espressamente, insomma, se qualcuno avesse memoria di altre esperienze del genere, di dirlo. Io per questo telefonavo, insomma, tanto per dire, ricordare qualche episodio, uno in particolare, insomma, in cui perfino la redazione del Tempo ebbe, diciamo, visse un momento, soprattutto da parte dei poligrafici, per la verità, un momento di contestazione con la proprietà, eccetera, eccetera. Sicuramente lì ci sarà qualcuno che ricorderà la storia di Paese Sera, ma come esperienza proprio di occupazione, come significato e come dall'occupazione collegamento con l'esterno, la più significativa fu senz'altro quella del Messaggero nel 1974, allora quando, insomma, la vecchia proprietà Perrone traballava, il Messaggero in maniera molto unita venne fuori un comitato di lotta tra poligrafici, tra tipografi e redattori, che occupò per parecchio tempo la sede del giornale, riuscendo anche a farlo uscire in qualche modo con una linea indipendente, insomma, con un taglio abbastanza marcato, e soprattutto a pochi giorni proprio dal voto del referendum, per chi se lo ricorda, insomma, chi non è tanto giovane, il 74 è la prima significativa vittoria del referendum, in particolare quella del divorzio, sul divorzio il Messaggero uscì con una pagina, c'era un no gigantesco sulla prima pagina che raccoglieva il no alla proprietà del giornale, il no dei lavoratori tipografi e dei giornalisti e il no anche al referendum, insomma, no? Quindi fu veramente un momento di massimo splendore, insomma, lo chiamarono addirittura il Mao Messaggero, insomma. Anche perché bisogna ricordarlo, carissimo amico e compagno, c'era all'epoca Pier Giorgio Paoloni, che è stato un grande grafico, di cui sicuramente tanti compagni che hanno lavorato nel campo dell'editoria, insomma, hanno avuto modo di apprezzare. Ma detto questo, insomma, io credo che ci sia, oltre che ricordare magari ripensare certe esperienze del passato, le cose non sono mai ripetibili allo stesso modo, evidentemente, però io credo, solleciterei lì a tutti i compagni e compagne della redazione di Liberazione, di sollecitare gli stessi utenti, ovvero gli stessi lettori, a dire che ne pensate di questa vertenza, che ne pensate del giornale, che ne pensate del ruolo del partito, della proprietà, che ne pensate del nostro futuro, insomma, magari diteci pure come vi piacerebbe che uscisse questo giornale, insomma, non so, io proprio su questo sono i momenti in cui forse questo contatto con noi lo facciamo spesso con gli ascoltatori, voi potreste farlo in queste circostanze molto di più con un filo diretto con i vostri lettori, insomma, sollecitandoli proprio a una presa di posizione su tutta questa storia. Vi ringrazio, ho finito. Vai, allora potete riprendere. Allora rientriamo. Rientriamo direttamente quindi da Liberazione, cercando anche di dare la possibilità di risposta, insomma, ai compagni della redazione di Liberazione. Poi magari facciamo un'ultima domanda per concludere, insomma, questo redazionale. E intanto grazie, bellissime queste dritte. Nei giorni prossimi venite su www.liberazione.it, che non mancheremo di andare a ripescare questa storia, a raccontarla, perché sicuramente è molto interessante. E per quello che riguarda anche il suggerimento che davi, lo condividiamo molto, e in realtà è una cosa che già sta succedendo. Liberazione c'ha da sempre una pagina di lettere abbastanza viva, abbastanza frequentata, e le lettere in questo periodo sono praticamente tutte sulla situazione del giornale, e siamo, devo dire, stupiti del fatto che i nostri lettori, molti si qualificano come militanti di Rifondazione, stanno spendendo parole di solidarietà vera, diciamo. La sensazione che ha la redazione è quella di essere capita, ecco, come se la nostra scelta, appunto, di lotta, che ci ha avuto anche dei momenti di grande asprezza, ce l'ha tuttora, speriamo adesso che al tavolo sindacale le cose si possa intrecciare quantomeno un vero confronto, ma ci sono stati momenti di grande asprezza nei confronti dell'editore e quindi automaticamente del socio unico che è Rifondazione. Siamo stupiti dal fatto che i lettori, ci sembra che invece capiscano questa nostra scelta di lotta, di occupare e di fare il giornale. È una cosa che ci colpisce molto, è molto molto interessante. E poi è in corso una sottoscrizione anche su quello, lanciata dal direttore, anche su quello c'è una risposta di grande generosità, quindi insomma sono segnali confortanti. Così, magari andando un po' a concludere, e volevo chiarirvi una cosa che poi è un po' anche, se volete, per certi versi una provocazione e anche un'esortazione, ovvero parliamo molto spesso, almeno Radio Onda Rossa cerca di farlo di tanto in tanto, anche in dibattiti pubblici, di quale può essere il futuro delle forme di comunicazione e di informazione dal basso. Ora, chiaramente Liberazione non è esattamente questo, perché comunque sappiamo, insomma, tutti la storia che ha, e sappiamo che anche insomma in questo momento in qualche modo è un giornale che è un organo di comunicazione di un partito politico. Però è vero pure che voi, come, diciamo, redattori e redattrici di Liberazione, in questo momento state un po' sperimentando invece effettivamente un lavoro di questo tipo, cioè se volete potete al di là, insomma, delle esperienze personali e delle convinzioni, diciamo, politico-ideologiche, state sperimentando sulla vostra pelle che cosa significa poi in qualche modo auto-organizzarsi e fare comunicazione dal basso. Quindi un po' l'esortazione era probabilmente pensarla, alla possibilità di pensare insieme come comunque in qualche modo forme di comunicazione della sinistra, antagoniste, piuttosto che insomma la situazione che vi state vivendo voi adesso, di capire quali possono essere effettivamente le forme comunicative, le forme di costruzione collettiva anche di un'informazione che non sia per forza di cose in mano, diciamo, a quelli che sono i potentati economici, o che, insomma, che sia il più libera e indipendente possibile. Così, questo era un po' per andare a concludere e anche sapere, insomma, voi come la pensate anche in questo momento specifico. Ma non mi avventuro, diciamo, sul futuro complessivo del mondo della comunicazione, no? credo che il senso profondo di Occupy Liberazione, del fatto di far vivere un giornale attraverso un'occupazione di lavoratori, che come ci è stato brillantemente ricordato ha dei precedenti, ma che rappresenta comunque in qualche modo un'anomalia positiva, no? Il fatto di poter condurre una lotta in questi termini, sia già un ragionamento che in parte, almeno ovviamente, e senza alcuna diciamo ambizione particolare, risponde però al quesito che tu ponevi. Credo che forse non sia un caso che Radio Onda Rossa sia qui, che non sia un caso che Radio Onda Rossa ha dato diciamo voce a questa lotta insieme a molte altre radio a livello nazionale in queste settimane. Il ragionamento, diciamo, che accompagna questa battaglia è esattamente quello: da un lato, e si diceva prima, questa merce immateriale che è l'informazione ha dietro di sé, la comunicazione ha dietro di sé dei lavoratori, e che c'è una vera questione, una vera emergenza dal punto di vista della precarietà, del lavoro nero, dello sfruttamento per quanto riguarda i lavoratori di questo comparto. Un inciso: nella città di Roma il circuito di questo tipo di lavori in senso lato che sta intorno, pensiamo soltanto alle produzioni radiotelevisive, pensiamo ai grandi gruppi Rai e Mediaset, vede migliaia di lavoratori che sono fuori dal circuito produttivo garantito, che sono fuori dalla rappresentanza sindacale, che arrivano fino a persone che rischiano la vita per tirare i cavi del collegamento che poi porterà quelle immagini attraverso due o tre passaggi ad andare in onda nel telegiornale della sera, e quelle persone sono degli invisibili dal punto di vista dei diritti del lavoro. Cioè, stiamo parlando di una condizione che soltanto qui, nella nostra città, nella città di Roma, riguarda moltissime persone, e quindi c'è un elemento concreto, no, di raccontare questa vicenda e dare voce a questa vicenda. Questo è un elemento. L'altro elemento è quello di ripensare, tenendo un collegamento stretto con i diritti di chi opera in questo settore, le forme e il senso stesso della comunicazione a sinistra. L'idea di occupare un giornale come questo, di fare dell'occupazione permanente la redazione di un giornale, di aprire quotidianamente, di abbattere le pareti un po' asfittiche di un giornale a ciò che gli sta intorno, a dire che le lotte che fin qui sono state raccontate vengano qui, si raccontino, diventino parte quotidiana della costruzione del giornale, vuol dire ragionare esattamente in quella direzione, con tutte le difficoltà del caso, senza negarci i limiti che le condizioni date, che gli elementi strutturali di questa testata contengono, ma è esattamente questo. Io credo che la sfida sia esattamente questa, su due piani: diritti del lavoro, anche laddove si pensa a volte si nasconde, specie a sinistra, che questo sia un lavoro, e dall'altra parte ragionare su che senso ha oggi comunicare, informare, quale sia il rapporto tra chi produce la notizia, fa le cose in qualche modo, e chi le racconta. Sappiamo che questo è un margine sempre più stretto, è un margine che, come dire, tende a cadere nella fattualità, nella materialità delle vite. L'occupazione di Liberazione parte proprio da questo: noi siamo i lavoratori che difendono questo posto di lavoro, difendono una voce che non è loro ma è un bene comune, e lo fanno stando qui dalla mattina alla sera, diventando in qualche modo la notizia, no, che raccontano. Ma questo non lo fanno per se stessi, lo fanno perché sono la voce di tutti gli altri, di tutti quelli che qui a Viale del Policlinico 131 potranno trovare casa insieme a noi per raccontare e per dare, come dire, voce a ciò che oggi spesso non ha nessun tipo di possibilità di parlare. Va bene, io direi che con questo finiamo questa diretta. Questa diretta direttamente dagli studi così trasformati in studi di Liberazione. E quindi ridiamo. Vabbè, comunque è anche bello, insomma, questa sperimentazione che abbiamo fatto. La radio, certo, va spesso, insomma, facciamo dirette in varie parti quest'oggi abbiamo una postazione molto più mobile, che è quasi un po' più sperimentale, perché vorremmo, insomma, poi da Liberazione anche spostarci in altri posti di questi momenti nella città, tutti gli angoli della città dove c'è movimento. Quindi sicuramente spero che la radio in questo infatti ci sposteremo là dove c'è movimento, e salutiamo Liberazione, venitele a trovare. Noi ridiamo la linea a Radio Onda Rossa direttamente da San Lorenzo, da Via De Volsci, e una buona trasmissione a tutte e a tutti. Noi